Libia, tra guerra e pandemia, la pace prende il largo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. As well as hearing the sounds of heavy explosions, Libyans in Tripoli are worried about a possible outbreak of COVID-19. As coronavirus sweeps the globe, the Tripoli-based government is taking preventive measures. A state of emergency has been declared. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi prepariamoci e preparatevi a un viaggio al di fuori dei confini italiani. È vero che siamo in tempo di pandemia, ma è altrettanto vero che le notizie che arrivano dal mondo sono tante e degne di nota. Quest'oggi faremo il punto sulla Libia, una situazione estremamente complessa per tutta una serie svariata di motivi. La guerra che continua, fa un anno adesso praticamente che il generale Haftar ha iniziato la sua guerra, la sua lunga cavalcata verso Tripoli. Allo stesso tempo è stata bloccata l'esportazione di qualsiasi prodotto petrolifero, sono stati chiusi i pozzi, ci si è messa anche la pandemia, i primi 10 casi sono stati rilevati in Libia, c'è la questione migratoria, in sostanza un cocktail esplosivo proprio alle porte dell'Italia che quest'oggi cercheremo di analizzare. Anche questa puntata è stata scritta e curata con tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano: Antonio Tagli, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza c'è Luca Cremonese e in console Andrea Roccabella. 349-238-6666 invece è il numero per SMS e WhatsApp per porre domande e commentare il tema al centro di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo, lo potete fare anche via Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, via Twitter, se amate cinguettare, i due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24 ovvero Giampaz. Detto ciò, la prima cosa da fare è andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. In questo periodo, in questi periodi di emergenza è evidente che c'è una gerarchia, una priorità delle notizie, ma a volte accade che anche i grandi network internazionali in qualche modo siano offuscati dall'evidente, importante, per carità, emergenza del coronavirus, ma almeno nelle prime ore, dopo che è uscita questa notizia, questo lancio di agenzia, sembrano per il momento trascurarla. Di che notizia parlo? Innanzitutto arriva dall'Afghanistan, perché oggi una delegazione di talebani ha incontrato per la prima volta, pensate, dopo 18 anni, i rappresentanti del governo legittimo di Kabul. Dopo vari appelli da parte degli Stati Uniti, e ricorderete anche la visita lampo di Mike Pompeo, che ha sostanzialmente tagliato i fondi statunitensi per l'Afghanistan di $1.1 miliardi, minacciando, se non riprendessero i colloqui con i talebani, di tagliarne un altro miliardo, come dire, Ashraf Ghani, il presidente afghano, ha fatto un passo di buona volontà. Perché faticava a fare questo passo e incontrare i talebani? Beh, perché sul tavolo c'è l'ulteriore liberazione di un bel po' di prigionieri, che era il nodo cruciale per i taleban stessi per poi procedere a una sorta di dialogo di unione nazionale. Vi ricordo anche che oltre alla già complessa situazione, peraltro anche lì evidentemente c'è molto timore per la pandemia, complessa situazione, dicevo, che vede questi difficilissimi colloqui tra Ashraf Ghani, quindi il governo illegittimamente riconosciuto di Kabul, e i talebani, vi è anche quell'Abdullah Abdullah, che era il contendente alle elezioni di ormai 8 mesi fa delle presidenziali afghane, che ricorderete come contromossa dopo la proclamazione della presidenza di Ghani si è autoproclamato anch'egli presidente, per cui l'amministrazione statunitense e lo stesso Pompeo hanno avuto il loro bel da fare per cercare di dirimere questa complicata situazione. Domani vi dovrebbe essere un secondo nuovo incontro, sempre tra la delegazione governativa afghana e i talebani stessi, naturalmente ve ne daremo conto. Arrivano già un po' di messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi però tornare in Siria, perché è tornato a farsi sentire l'ISIS. Ha colpito in particolare con una serie di attacchi che si sono susseguiti e registrati nelle ultime 24 ore nelle regioni di Homs, Deir ez-Zor e Suaida. E lo ha riferito l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, lo sapete, è questa diaspora siriana che fin dall'inizio del conflitto da Londra dava gli aggiornamenti, da molti contestato per la parzialità stessa dell'osservatorio. Però questa notizia si collega a quella che vi davamo lo stesso ieri, proprio ieri, la fuga di alcuni militanti islamici da una prigione che era in mano ai curdi. Evidentemente la prigionia e quelle prigioni dove vengono detenuti tanti miliziani o sospetti militanti dell'ISIS è assolutamente una bomba a orologeria in una guerra che ormai è entrata nel suo decimo anno. Peraltro sui social network l'ISIS sta di nuovo mettendo la quinta e sta diffondendo nuovi video di propaganda e mostrando le sue nuove rinnovate azioni militari contro i militari governativi siriani proprio nella regione di Homs. Sono passati forse pochi mesi, 5-6 mesi da quando l'Occidente quasi festeggiava, forse in maniera sommessa e troppo anticipata, la vittoria sul sedicente Stato Islamico. Intanto nel quadrante si è fatta sentire anche l'aviazione israeliana. Perché? Perché gli aerei israeliani hanno colpito l'aeroporto militare di Shayrat a sud-est di Homs, cercando di colpire, riuscendoci almeno secondo quanto ha dichiarato Israele stesso, carichi di armi che provengono dall'Iran e destinate alle milizie filo-iraniane presenti in Siria. Secondo molti analisti questa mossa è da notare, secondo i tecnici, quegli osservatori dei settori militari più attenti, e per la prima volta è stato utilizzato anche lo spazio aereo libanese, almeno da fonti di stampa, e molti analisti leggono questa mossa come un messaggio a Mosca e a Ankara per ribadire che anche Israele c'è, è lì della partita, nonostante, sapete, i profondi rivolgimenti, i tanti colpi di scena nella politica israeliana negli ultimi 12 mesi. E infine, ieri, a proposito di Siria, ma anche di Libia, e ne parleremo tra pochissimo, è uscito un comunicato che vede e che ha visto il presidente americano Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan concordare sul fatto che è più importante che mai che i paesi in conflitto, in particolare Siria e Libia, aderiscano ad un cessate il fuoco e lavorino ad una soluzione. L'ho reso noto lo staff del presidente Donald Trump dopo una telefonata e una chiacchierata che hanno fatto i due. Testualmente si è scritto: per lavorare insieme in coordinamento sulla campagna internazionale per vincere il coronavirus e sostenere l'economia mondiale. Intanto 349-238-6666 per chiudere, diciamo, questa lunga apertura sui dossier internazionali, le reazioni da parte vostra. C'è qualcuno che sottolinea: anche in Senegal hanno fatto lo stesso errore dell'Ungheria dando i pieni poteri al presidente. Guardi, gentile ascoltatore, il punto non è, come dire, avere pieni poteri, entrare in uno stato di emergenza in un tempo limitato. Quello che è accaduto e che abbiamo raccontato ieri, qualcuno l'ha definito colpo di stato di Viktor Orbán, è stato non porre un limite temporale, tanto che molti giuristi e anche l'opposizione ungherese ha sottolineato che la mossa, la legge e le conseguenze di questa legge potrebbero essere anche anticostituzionali, quindi sicuramente ne sentiremo parlare e ve ne daremo conto nei prossimi giorni. Qualcuno invece si esprime sull'Afghanistan: altro fallimento, 19 anni di guerra, migliaia di morti, alla fine non si dice sconfitta, ma quella è, tutto in mano ai talebani come prima, veri geni noi occidentali, così Enrico. E non c'è dubbio, e l'abbiamo spesso sottolineato sempre da questi microfoni, il grande fallimento dell'Occidente in Afghanistan è stata la guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti, la più costosa non soltanto in termini di vite umane ma anche di budget, milioni, miliardi di dollari spesi, e adesso per lasciare un Afghanistan che è in mano per almeno il 50% appunto ai talebani. E paradosso della recente storia, adesso talebani che vanno a bussare alla porta del presidente afghano per, pensate, governare insieme, con quali conseguenze evidentemente per la popolazione civile, per le donne, per le scuole, per i bambini, ancora adesso non è dato saperlo. Allora, 349-238-6666, Facebook, Nessun Luogo Lontano, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, questi erano i nostri dossier internazionali. Lo ricordo, sono le notizie che accendono la nostra curiosità e diventeranno approfondimenti di Nessun Luogo nei prossimi giorni. Adesso, Andrea Roccabella, la prima cosa da fare è andare in Libia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you. suoni che avete sentito sono quelli dei costanti bombardamenti, nonostante i ripetuti appelli anche da parte delle Nazioni Unite, del Papa, dei principali leader mondiali, Erdogan, Donald Trump, dicevo, bombardamenti su Tripoli, ma anche su Misurata. Continua a stringersi la morsa, peraltro per il momento non con troppa efficacia, del generale Haftar, che giusto un anno fa lanciava la sua operazione per riprendersi la Libia. Tra pochissimo sentirete la voce di un analista, forse tra i più preparati e competenti, proprio sul quadro libico, perché è un cocktail, lo dicevamo all'inizio, decisamente esplosivo. Pandemia in arrivo, è già arrivata, 10 casi, guerra che si protrae da almeno un anno, milizie che ogni tanto fanno di volta gabbana, lasciano entrare Haftar, per esempio la 604 a Sirte, insomma, situazione davvero complessa. In tutto ciò c'è sempre il problema migrazione, che con l'arrivo del coronavirus è destinato a diventare una bomba 4.0. Dall'inizio dei combattimenti 57.000 famiglie hanno lasciato Tripoli. Un anno fa, lo dicevo, Haftar lanciava la sua operazione Flood of Dignity. Certo, dignità era una bella parola da mettersi assieme alle mostrine. Quello che è accaduto, fra l'altro, e aggiungo complessità alla questione, al racconto di quest'oggi, ricorderete la chiusura sostanzialmente dei pozzi petroliferi e con un Haftar che cerca di stritolare anche dal punto di vista economico l'intera Libia. Perché? Perché la NOC, cioè la Società Centrale Libica Petrolifera, che poi va a dividere i proventi assieme alla Banca Centrale Libica fra le due Libie, fra Tripoli e Bengasi. Come abbiamo spesso detto e come qualche analista ha giustamente sottolineato, è come se due nemici si chiudessero in una stanza, a un certo punto chiudessero l'ossigeno, iniziassero a spargere gas benefico cercando di scoprire chi muore prima. Allora vi faccio sentire immediatamente qual è la situazione a Tripoli, perché Antonio Tali ha appena raggiunto Zainab Mohamed, che è una giornalista libica, è di base a Tripoli. Qual è la situazione sul fronte dei bombardamenti? Sentite la sua voce. We'll start with the operation which the European Union. Beh, l'operazione Irini, lanciata dall'Unione Europea nel Mediterraneo, avrebbe come obiettivo di contribuire al processo di pace in Libia attraverso una politica comune sulla difesa e sulla sicurezza. L'Unione Europea ha ribadito che solo una soluzione politica può condurre a risolvere la crisi libica e a un cessate il fuoco permanente. In contemporanea all'inizio dell'operazione Irini si chiude l'operazione Sofia, ma la risposta del ministro degli esteri del governo di accordo nazionale libico, Mohamed Taha Siala, è che la missione Irini, di fatto, colpisce maggiormente proprio il governo di accordo nazionale di Tripoli, e dato che non prevede né un dispiegamento su terra né un dislocamento di forze aeree, in ultima analisi, è una missione che non può davvero bloccare le armi che arrivano alle forze del cosiddetto generale Khalifa Haftar. To Haftar arming process. Il primo commento di Zainab Mohamed da Tripoli, dovete perdonarmi, siamo in fase di produzione proprio mentre siamo in onda e stiamo ancora ultimando le ultime risposte di Zainab Mohamed, traducendole e facendo un adeguato voice over in modo che siano intelligibili da parte di noi tutti. Questo era invece il commento all'inizio della missione Irini. Fatemi però andare da Arturo Varvelli, che dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio. Allora, come definiresti la situazione libica quest'oggi? Sofia è finita, Irini è già quasi pronta, con compiti diversi da Sofia, Haftar che spinge su Tripoli, forse anche su Misurata, irrompe il coronavirus. Ecco, direi senza speranze, in questo quadro ci lascia con poche, pochissime speranze. Ci lascia con poche speranze perché ci sono tutti questi fattori che si stanno in qualche maniera mettendo insieme. Sovrapponendo. E secondo te, Arturo Varvelli, la continua avanzata di Haftar, nonostante appunto dicevamo gli appelli delle Nazioni Unite e non solo per l'epidemia, per la pandemia, potrebbe cogliere la palla al balzo? Io mi sto immaginando, senza fare l'esperto di tattica militare, strade più vuote evidentemente, c'è un coprifuoco, gli ospedali già al collasso, quindi questo potrebbe causare dei problemi, no? Anche ai feriti, per esempio. Come leggi l'evoluzione sul terreno? Ci sono continui bombardamenti e l'aeroporto di Tripoli per l'ennesima volta è stato chiuso a causa dei razzi. Sì, è tutto possibile onestamente, perché è anche possibile però che gli stessi problemi li abbia anche Haftar dall'altra parte. quindi non dobbiamo dare per scontato, diciamo, che questa situazione possa favorire Haftar a tutti i costi. Sì. Io penso che questo aumenti in ogni caso il caos generale del paese e non diminuisca l'ansia di desiderio di potere da parte del generale Haftar e penso anche dei supporter del generale Haftar stesso, ma in questo momento io vedo forse più di tutti supportare il generale Haftar gli Emirati Arabi. Quindi da questo punto di vista io non penso affatto che Haftar possa cedere a qualche tregua di qualche tipo, duratura, veritiera, ma penso che Haftar in ogni caso da quando è partito, ma sicuramente anche prima, ossia cioè un anno fa, ma almeno da quel momento il suo obiettivo è rimasto quello di entrare in Tripoli e sì, penso che lo perseguirà con tutte le forze il suo obiettivo. È una persona, abbiamo detto più volte, che non è giovane, non ha tempo da perdere, non ha tempo da mettere davanti a sé al suo obiettivo politico finale. L'obiettivo politico finale è diventare il leader di questo paese. E ha messo in atto tutta una serie di mezzi per arrivare a far ciò, non ultimo quello della chiusura dei pozzi di petrolio, che lo favorisce enormemente perché sfavorisce l'altro campo, diminuendo l'unica capacità che aveva in più di lui, che non è quella militare, che non è quella politica, ma era quella finanziaria ed economica. E quindi, tornando a quella metafora, diciamo, di due nemici rinchiusi nella stanza con la bombola del gas aperta, forse è un'arma più a disposizione di Haftar. L'analisi di Arturo Varvelli, tra pochissimo, lo ricordo, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Tra pochissimo ti solleticherò su un altro aspetto, ne parliamo spesso qui nel suo luogo lontano, è il ruolo delle milizie. Proviamo a fotografarle. Sono centinaia i gruppi armati che operano in Libia. Alcuni di essi sono forze tribali, spesso in lotta fra loro. Altri sono milizie islamiste. Altri ancora sono formati da ex agenti dei servizi di sicurezza del regime di Gheddafi. Sono armati fino ai denti e detengono un controllo del territorio che è strategico per Haftar e Serraj. A sostenere l'uomo forte della Cirenaica ci sarebbero gli uomini delle tribù Zuwaya e Ferjan, da cui proviene lo stesso Haftar. Nella regione sud-orientale di Kufra, in Cirenaica, opera la brigata libica Sobul al-Salam, formata da circa 300 membri e principale forza affiliata all'esercito di Haftar in quest'area. A Seba, nel sud della Libia, abbiamo la sesta brigata, formata nel 2013 dall'unione di diverse milizie rivoluzionarie e principalmente da membri della tribù Aulad Suleiman. La sesta brigata si è dichiarata dalla parte di Serraj, mentre le tribù Tuareg e Tebu sono state cooptate da Haftar. A Misurata operano la brigata Mahjoub, che ha sostenuto l'istituzione del governo di accordo nazionale nel 2016, e le brigate Al-Bus e Attin. A Tripoli sono quattro le milizie operative: la forza Rada, guidata da Abdel Rauf Kara, il battaglione Nawasi di Abdel Latif Kaddour, la brigata dei rivoluzionari di Tripoli, con a capo Haitham Al-Tajouri, e l'unità di Abu Salim agli ordini di Abdel Ghani al-Kikli. Questa è la complessa fotografia composita delle tante milizie legate alle tante tribù che sono presenti in Libia. Recentemente uno studio del think tank londinese Chatham House ha messo in luce la complessità anche delle relazioni non soltanto tra una tribù, una milizia e l'altra, ma anche tra la popolazione locale e le milizie attive in Libia. Per esempio, a Tripoli la presenza di queste milizie non è universalmente popolare. Da un lato viene riconosciuto il miglioramento delle condizioni di sicurezza in città, dall'altro però c'è un evidente desiderio di transizione di queste milizie verso una sicurezza più formale. E poi c'è il problema della corruzione. Tantissimi cittadini, non soltanto di Tripoli, lamentano il fatto che si debba banalmente pagare il pizzo a quelle che sono appunto gli esponenti, i membri armati di queste milizie. Quindi anche la vita quotidiana si fa difficile. Tra le città e le tribù che sono più potenti, più pesanti dal punto di vista militare, c'è certamente Misurata. Negli ultimi giorni Arturo Varvelli, lo ricordo, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Dicevo, Arturo, Misurata ha ricevuto delle visite da parte dell'aviazione emiratina, quindi con un Haftar che continua a porre attenzioni su Misurata. Potrebbe provare l'assalto finale su questa importante città e ricordiamo anche la presenza militare italiana. Io non penso che ne abbia la forza, non dico che non ne abbia il desiderio, la volontà e forse anche la velleità, perché insomma ha già gettato il cuore oltre l'ostacolo più diverse volte, diciamo così, con azioni più che spregiudicate, però io penso che non ne abbia la forza militare, non ha numericamente, diciamo, i soldati necessari. Misurata è una città che è variamente composta da milizie. Quando parliamo di milizie di Misurata in realtà parliamo di almeno 2-3 gruppi diversi, che però quando si sentono attaccate, messe diciamo minacciate nella loro esistenza, allora si coalizzano e diventano molto forti e sono ancora le meglio equipaggiate nonostante tutto. Sì. Quindi io reputo questa una mossa molto azzardata da parte di Haftar, non penso che sia così sciocco da compierla. Sì. La voce che sentite è quella di Arturo Varvelli. Allo stesso Arturo Varvelli, chiedo a modi slogan, so che devi scappare perché il telelavoro incombe, no? Quindi grandi conferenze ovviamente, stiamo diventando esperti di tutti i software possibili, immaginabili, quindi ti chiedo una risposta a modi slogan. È partita, non è ancora in mare, evidentemente l'operazione Irini, ci sono gli ultimi dettagli, il numero di mezzi, quanti ne offrirà la Germania e gli altri paesi europei, eccetera. Avrà il compito di far rispettare l'embargo di armi. Voci critiche si sono già levati, da Tripoli in particolare, dicendo che favorisce Haftar. Il tuo pensiero in 30 secondi, Arturo Varvelli. Ma il mio pensiero è che in realtà non favorisce particolarmente nessuno e mi pare che non sfavorisca neppure l'embargo, cioè non sfavorisca neppure l'arrivo di armi, diciamo. Quindi da questo punto di vista mi sembra che risolva poco, molto poco, ed è frutto di un compromesso a ribasso dei vari attori all'interno dell'Unione Europea, ognuno con esigenze diverse, ognuno che guarda al proprio tornaconto o, come dire, a non danneggiare la propria opinione pubblica. Quindi i greci accettano di ospitare i migranti se mai vengano raccolti da questa missione, ma in cambio di soldi. L'Italia non vuole che le navi vengano posizionate davanti alla costa della Tripolitania e rinuncia in effetti a fare un vero controllo della costa perché ha paura che arrivino i migranti, esista questo pull factor, anche se nella pratica probabilmente non è mai esistito. La Francia non vuole che sia davanti alla Tripolitania perché non vuole che l'Italia eserciti un ruolo ed è contento che sia dall'altra parte perché così ostacola l'arrivo dei flussi da parte dei turchi. Cioè ognuno continua a guardare il proprio obiettivo, la missione viene privata di un vero compito, di una vera funzionalità. Sì. Insomma, missione non particolarmente efficace, almeno sulla carta. Questa è l'opinione di Arturo Varvelli. Tra pochissimi giorni ne sapremo qualcosa di più. Ricordo, sarà una missione che durerà un anno e naturalmente saremo qui a raccontarvela. Grazie mille, Arturo Varvelli, direttore dell'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. Buona giornata e buon lavoro. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo lontano facciamo un po' il punto della situazione libica, le cui notizie sono state offuscate dalla pandemia. Sicuramente il coronavirus sta un po' cancellando quelle che sono che sarebbero state in altri momenti delle priorità di racconto e anche giornalistiche. Però il mondo continua a girare, cerchiamo per questo motivo in queste giornate di restituirvi anche quella che è la grande attualità internazionale, ma come gioco forza essa si dipana sempre e comunque sullo sfondo del coronavirus. Situazione libica. Cerchiamo di mettere insieme quelli che sono gli ingredienti e i fattori, lo dicevamo. La missione Irini, che sta per prendere il largo, durerà un anno, si concluderà il 31 marzo del 2021. Vi sarà un italiano, un ammiraglio italiano alla guida di questa missione. Il compito sarà soprattutto cercare di contrastare il traffico di armi, sarà anche quello di continuare ad addestrare la Guardia Coste e la Marina Libica, quella di Tripoli. Cercherà di evitare il cosiddetto pull factor, quindi di attirare migranti. Se dovesse recuperare migranti, essi verranno portati in Grecia e poi ridistribuiti nei vari paesi europei. Naturalmente il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha salutato questa opzione come una vittoria da parte dell'Italia, che si è messa in mezzo dicendo: attenzione, in questo momento peraltro di crisi di coronavirus non intendiamo essere il primo porto di approdo. gli altri ingredienti di questa crisi libica, il variegato mondo delle milizie che vi abbiamo appena restituito, anche con ruoli diversi, perché il generale Haftar in realtà nella zona di Bengasi è riuscito, come dire, a fare forse un po' di più da collante con tutte le varie anime di queste milizie, dando una struttura molto più vicina a un esercito di quelli che conosciamo noi in Occidente, di quanto non abbia fatto probabilmente Tripoli dall'altra parte. E poi c'è la bomba migranti, e qua non ho timore di utilizzare termini forse un po' sensazionalistici, perché immaginate, con l'arrivo del coronavirus, benché vi siano poche partenze, il mese di marzo ha visto l'80% dei casi. Chiaramente quei centri di detenzione, non di accoglienza, come ancora qualcuno erroneamente continua a dire, centri di detenzione, sono pieni di persone, molto spesso malate, condizioni igieniche deprecabili, condizioni sanitarie altrettanto, potrebbe essere una vera e propria bomba. La vostra voce che arriva al 349-238-6666 sotto forma di SMS e di WhatsApp, come l'impressione che questa guerra libica, questa guerra civile libica, finirà come quella israelo-palestinese, 50 anni che si tirano le bombe in testa, così Marco da Ferrara. Qualcun altro che ritirava fuori quella che era la nostalgia per Gheddafi, ma adesso ahimè non riesco più a recuperare quel messaggio. Un altro ascoltatore dice, eccolo qua, era lui lo stesso: molti libici rimpiangono il generale Gheddafi, sicuramente i sostenitori interni di Haftar, ma secondo me anche molti governi occidentali vorrebbero per la Libia un governo forte. Stanno capendo che per mettere d'accordo le mille fazioni ci vuole un uomo solo al comando, e sicuramente Haftar è più carismatico del suo contendente, così un ascoltatore. Allora, adesso vi faccio sentire, come promesso, la voce di Zainab Mohamed, che è una giornalista di Assaba News, il quotidiano online di informazione di Tripoli. Prima mi abbiamo fatto sentire quella che è stata la reazione della capitale, di quel piccolo pezzetto di Libia che è rimasto sotto la morsa di Haftar, all'avvio dell'operazione Irene, o Irini se preferite. Sentiamo cosa sta accadendo nelle zone del governo di accordo nazionale con l'epidemia da coronavirus. Sentite. تلقينا نبأ استشهاد أبناء طلبة الكلية العسكرية بعد قصفهم من قبل الطيران المسير من دولة الإمارات أثناء وجودهم داخل ساحة الكلية لإجراء التمارين الليلية لتضاف هذه الجريمة الشنيعة إلى باقي جرائم العصابات المارقة. Also, you know, the citizens are, you know... A causa dell'aumento dei casi confermati di coronavirus, il governo di accordo nazionale ha cambiato le misure della quarantena in atto a Tripoli. In questo periodo in città c'è una specie di coprifuoco. Possiamo uscire, ad esempio, per procurarci del cibo solo dalle 7 del mattino alle 2 del pomeriggio. Dalle 2 del pomeriggio fino alle 7 del mattino seguente non bisogna uscire di casa. Questa situazione sta terrorizzando i cittadini. Da un lato i prezzi di tutti i generi alimentari stanno aumentando, dall'altro invece i salari sono sospesi e la gente teme di venire bombardata mentre rimane in casa. Il primo caso confermato di coronavirus a Tripoli risale a qualche giorno fa ed è un 73enne che attualmente si trova all'ospedale centrale libico. Quando il primo caso è stato individuato, sono subito emerse diverse storie. I medici dell'ospedale che ho sentito mi hanno detto che non c'era sufficiente equipaggiamento medico, mentre il capo del Dipartimento di Malattie Infettive, invece, diceva che l'equipaggiamento era sufficiente. Il secondo caso, riferisce il Dipartimento della Salute, è un 43enne proveniente dalla Turchia, mentre tutti gli altri casi non si troverebbero a Tripoli, ma a Misurata. In tutto, i casi sono 10. Una mia fonte mi dice che gli ultimi due casi riscontrati sono sempre a Misurata, ma non sappiamo niente su di loro. Che età hanno? Come sono stati infettati? Qui a Tripoli molti dottori concordano sul fatto che, paradossalmente, il fatto che l'aeroporto sia fuori uso ci abbia protetto. Il virus per ora non si è diffuso. E questa è la situazione di Tripoli, pochi minuti fa, fotografata da Zainab Mohamed, che è una collega appunto tripolina, che ci sta raccontando cosa significa vivere in quel cocktail esplosivo fatto di una guerra, benché il fronte non sempre invada il centro città, vi sono ogni tanto dei bombardamenti, ma siamo a sud di Tripoli, soprattutto è l'aeroporto di Mitiga. Cosa significa vivere con una pandemia in arrivo, i primi 10 casi, e comunque con una situazione, voi dovete immaginare che Tripoli non sempre ha elettricità, acqua corrente, insomma è una situazione davvero grave, con le forze del generale Haftar che spingono da sud. Un po' di vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno chiede come mai noi puntiamo sempre sul cavallo perdente e non su Haftar, così Ferdinando da Bologna, però in realtà, gentile Ferdinando, tutta la comunità internazionale, salvo pochi e alcuni sotto traccia, hanno puntato su Fayez al-Sarraj, sul governo di Tripoli, che è riconosciuto dalle Nazioni Unite. Poi c'è stato qualcun altro, e cito in ordine sparso, ma non in ordine di importanza, che ha puntato su Haftar: Francia, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Insomma, è evidente che in Libia si stia giocando una guerra contro terzi. C'è qualcuno che con agenda propria alla mano contrasta l'agenda degli altri, e questo è evidente. Credo anche che gli interessi italo-francesi non siano esattamente coincidenti sul territorio libico. Seriamente volete farci credere che i libici preferissero questo Gheddafi a una nazione stabile? Io non credo, ma su questo effettivamente dovremmo chiederlo ai libici. Certamente dal punto di vista della stabilità e delle pulsioni jihadiste è chiaro, questo è inequivocabile, che Gheddafi li ha trattenute con pugno duro fino adesso, e l'aveva peraltro previsto poco prima della sua morte, che la Libia sarebbe diventato un caos. Ma è il solito bilanciamento tra quelle che sono compressioni di libertà, regimi più autoritari, e invece possibilità di far esplodere le dinamiche, a volte anche in maniera violenta. Torniamo però a Tripoli, perché è importante aggiungere anche qual è la situazione sul fronte dei bombardamenti. Lo facciamo sempre con la voce di Zainab Mohamed. Sentite, perché gli ultimi bombardamenti di Haftar sulla capitale risalgono a poche ore fa. Well, military, the GNA yesterday issued a statement. Ieri il governo di Tripoli ha condannato di nuovo i bombardamenti di Haftar, l'aggressione dei suoi mercenari e delle sue milizie contro la città di Tripoli e i suoi dintorni. L'ultimo attacco si è verificato proprio ieri. Le milizie di Haftar hanno colpito due aree in due zone diverse di Tripoli, e a causa delle ferite alcuni militari sono morti, anche se non sappiamo con certezza quanti. Qualche giorno fa, il 27 marzo, diverse personalità libiche da una parte e dall'altra hanno provato a lanciare un appello, nel quale si chiede per l'ennesima volta di sospendere le ostilità e di collaborare nella lotta contro il coronavirus. È lo stesso appello della comunità internazionale, dell'ambasciata americana, e il presidente del governo di accordo nazionale, al-Sarraj, è disposto ad accettarlo pur di arrivare alla discussione di un accordo di pace per una Libia unita. Così Zainab Mohamed, che ci restituisce quello che è quasi in diretta, pochi minuti fa è stata raggiunta da Antonio Taglia, quella che è la situazione a Tripoli. Situazione complessa, dicevo. Qualcuno di voi al 349-238-6666 punta il dito su Haftar. Per abbattere i suoi pochi caccia ci vorrebbe pochissimo, scrive un ascoltatore. Non si capisce perché nessuno, nemmeno la Turchia, lo faccia. E poi qualcun altro invece che, avendo illuminato anche la situazione dei migranti e la fragile situazione del governo libico, credo che in qualche modo e a suo modo voglia stigmatizzare il nostro racconto. Prima una frase che non ripeterò perché dovrei sfrondarla dal turpiloquio, e vi raccomando, è l'unica regola, oltre a no sessismo, no razzismo e no turpiloquio, così evito di fare delle perifrasi dei vostri messaggi. Comunque questo ascoltatore dice, magari ironicamente, mandiamo altri 50 milioni di euro in Libia, ci vuole coraggio a reclamare solidarietà per altre nazioni in questo momento. Beh, la stessa solidarietà in parte a pagamento che abbiamo ricevuto da tante altre nazioni proprio per l'emergenza coronavirus, la stessa solidarietà che Donald Trump sta mostrando a tanti paesi, che Vladimir Putin sta facendo con Donald Trump, con quell'aereo russo, con la telefonata tra Trump e Erdogan, con insomma potrei andare avanti facendo un elenco incredibile. La pandemia per forza di cose sta riducendo il mondo è sempre più piccolo e ripeto, come dicevamo ieri, siamo tutti nella stessa barca, perché finché non viene estinto questo virus in ogni angolo del globo, in una società così globalizzata e così moderna, basterà il primo volo con uno sbarco in un grande aeroporto internazionale per ricominciare da capo. Detto ciò, vedo anche segnali di forte solidarietà, molto spesso spinte anche da interesse politico, non dobbiamo negarlo assolutamente. La invito a riascoltare la puntata, se avesse tempo, gentile ascoltatore, La diplomazia della mascherina, come l'epidemia di coronavirus e come gli aiuti, non sempre sono aiuti in quanto tali, sia una formidabile leva per certe nazioni per farsi vedere nel posto giusto al momento giusto. Per esempio sono arrivati i medici cubani, sono arrivati i medici militari russi, insomma anche l'Italia sta ricevendo solidarietà. Detto ciò, io direi facciamo una piccola pausa, Andrea, andiamo a sentire come va la viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati. Se vi siete sintonizzati solo adesso, questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Ecco, in un momento in cui la grande attualità internazionale vive sempre sullo sfondo del coronavirus, c'è un capitolo che è stato un po' tralasciato negli ultimi giorni, e il capitolo è il dossier libico, importantissimo per l'Italia, vitale non soltanto per le risorse energetiche, ma per la gestione dell'immigrazione e per l'intera stabilità del Mediterraneo. Ricordiamo bande affiliate all'ISIS dal sud della Libia, poi verso l'Algeria, ciò che resta di Al-Qaeda nel Maghreb. Vi sono serie preoccupazioni da parte dell'Unione Europea, che, lo ricordo, sta schierando, è pronta a salpare la nuova missione di pace. Ma il caos libico è tantissimo, lo avete sentito dalle parole della giornalista Mohamed da Tripoli, lo avete sentito da Arturo Varvelli, un analista che da anni studia e racconta quello che accade in Libia e cerca soprattutto di interpretare le tante dinamiche. C'è il capitolo umanitario, il capitolo migranti, che a dispetto di qualche messaggio che trovo francamente stucchevole, perché quando un messaggio inizia con "visto che insisti portateli tu a casa loro", francamente non mi prendo nemmeno la briga di rispondere. O lei, gentile ascoltatore, argomenta seriamente quello che è il suo disappunto nei confronti del fatto che stiamo fotografando la complessità della situazione libica, o glielo ripeto, francamente non merita risposta. Ma se dovessi riarticolarlo, volentierissimo, sono qua. Detto ciò, perché è importante il capitolo umanitario e il capitolo migranti? È semplicemente perché le prigioni della Libia, ve ne sono di ufficiali, di non ufficiali, con il coronavirus sono meno accessibili agli operatori umanitari e agli operatori delle Nazioni Unite. Col propagarsi della pandemia potrebbero essere delle vere e proprie bombe a orologeria pronte a esplodere. È vero che gli sbarchi sono diminuiti dell'80% nell'ultimo mese di marzo, ma è anche vero che evidentemente c'è un allarme sanitario se dovessero ripartire alcune imbarcazioni con migranti che poi dovremmo, gioco forza, testare, fermare, chissà. E questa è la grande domanda. Vi faccio sentire quella che è la voce di Don Mussi Zerai, che è un sacerdote eritreo, presidente dell'agenzia Beshia, che da molti anni denuncia le condizioni nei centri di detenzione libici. Sono soprattutto eritrei ed etiopi. Sentite che cosa sappiamo innanzitutto della diffusione del coronavirus nei centri di detenzione per migranti in Libia. La voce di Don Mussi Zerai. Tra condizioni igienico-sanitarie quasi inesistenti, la mancanza di un adeguato nutrimento, per cui fisicamente sono molto debilitati, se il rischio si aggiunge anche l'eventuale contagio di coronavirus, sarà veramente un disastro annunciato, perché lì vivono in condizioni precarie, ammassati, e questo renderà tutto complicato. Per di più non sappiamo tra le persone che sono già lì, che hanno alcuni sintomi, che sembrano semplice influenza, però nessuno è andato a verificare, non hanno fatto i tamponi, ci sono già persone che soffrivano per altre malattie croniche, che sia il TBC e quant'altro, per cui ci sono delle situazioni veramente gravi. Quindi in questa emergenza della pandemia, dove tutto il mondo è preoccupato, loro sono in una situazione peggiore di tutti gli altri, sono confinati, privati della loro libertà personale, non possono organizzarsi personalmente l'autotutela, perché sono detenuti in questi capannoni, ammassati lì, veramente in mezzo alla sporcizia e quant'altro, per cui il pericolo per loro è reale e purtroppo a questo si aggiunge poi tutta la violenza, i maltrattamenti, tutta una serie di soprusi che subiscono. La voce di Don Mussi Zerai, un sacerdote che è molto vicino e ha seguito tante volte quelle che sono le condizioni nei centri di detenzione libici. Piove sul bagnato, in questo caso verrebbe da dire, alla guerra che ormai si sta consumando da tempo sul territorio libico. Si sommano le gesta e le malefatte dei trafficanti di uomini, che tanti soldi portano nelle tasche anche di formazioni jihadiste. Si continua a stratificare quella che è per il momento una inazione europea, nel senso che stanno prevalendo gli egoismi di alcuni attori, la Francia per esempio, fuori dall'Europa la Turchia, lo sapete, ha mandato non soltanto dei combattenti siriani, almeno 2000 sul fronte di Tripoli per difendere al-Sarraj, ma anche dei consiglieri e degli ufficiali turchi a tutti gli effetti, nonché dei sistemi antidrone per cercare di sconfiggere i droni degli Emirati Arabi Uniti. Una situazione davvero complessa che avviene a poche miglia dalle coste italiane. 349-238-6666, un ascoltatore o ascoltatrice: il mondo ha paura, la gente ha paura, i governi hanno paura perché impotenti, scrive l'ascoltatore, di fronte a questa pandemia che cambia e cambierà molti equilibri statici internazionali. Io, gentile ascoltatore, capisco e abbraccio la paura della gente, perché ne faccio parte evidentemente. Credo che invece i governi non dovrebbero aver paura, e in realtà l'impotenza in alcuni casi mi sento di poter dire che si è trasformata in risposta più o meno efficace, e sicuramente invece concordo sulla chiosa del suo breve messaggio: cambierà molti equilibri internazionali, questo non c'è assolutamente dubbio. È una pagina di storia incredibile quella che stiamo vivendo, ci sarà un prima e un dopo questa pandemia, e anche gli equilibri saranno differenti. Allora, questa pandemia ha dimostrato che l'immigrazione del Mediterraneo è causata all'80% dalle navi delle ONG. Fermare queste navi significa fermare sbarchi e morti in mare. Così Beppe, che si dice convinto che esista questo pull factor, questo cosiddetto fattore di attrazione da parte delle navi presenti di fronte alla costa libica, cosa che in realtà, lo ripetiamo spesso, è smentita dalle statistiche. Qualcun altro invece, che chiosa, se in Libia stanno male torni nei loro paesi, cuccagna italiana finita, che è assolutamente ragionevole, gentile ascoltatore, se non fosse che in molti casi non possono tornare a casa perché vengono detenuti e vengono venduti, per esempio, dalla milizia o dal trafficante ai carcerieri e dai carcerieri ai trafficanti e così via, e ogni volta le famiglie sono costrette a pagare. E questo è uno dei problemi nel lasciare una situazione così esplosiva e mal gestita a poche miglia dalla costa italiana. È una questione, anche se volete, puramente cinica e di interesse. L'Italia e l'Europa non si può permettere disinteresse del caso libico. Ha invece mostrato interesse, e lo ha fatto con questa missione Irini. Siamo quasi in chiusura, ma cerchiamo di mettere qualche puntino sulle i, perché per il momento stanno colloquiando gli alti vertici militari per capire che cosa mettere in campo, o meglio dovrei dire in mare. Ascoltiamo. Chiude i battenti Sofia, la missione voluta dall'Unione Europea nel 2015, e prende avvio oggi, 1° aprile, Irini. Concepita per far rispettare l'embargo ONU sulle armi in Libia, Irini, che in greco significa pace, durerà almeno fino al 31 marzo e sarà guidata dal contrammiraglio Fabio Agostini. La missione si avvarrà di mezzi aerei, satellitari e navali per effettuare le ispezioni delle imbarcazioni sospettate di trasportare armi e materiali bellici destinati alla Libia. Oltre al suo scopo primario, Irini dovrà monitorare e raccogliere informazioni sull'export di petrolio e prodotti derivati dalla Libia, contribuire all'addestramento della Marina Militare e della Guardia Costiera libiche, contribuire allo smantellamento del traffico di esseri umani attraverso la raccolta di informazioni e il monitoraggio aereo delle coste e del territorio libico. Sfociata da 6 settimane di negoziati complessi e difficili, come affermato dall'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la difesa, Joseph Borrell, Irini non è da considerarsi come una missione Sophia Bis, in quanto le differisce per l'obiettivo primario e per la gestione dei migranti. Restando assodato l'obbligo del salvataggio in mare, così come sancito dal diritto internazionale, le persone soccorse saranno condotte nei porti greci, secondo le istruzioni impartite di volta in volta dalla Repubblica Ellenica o nei porti degli stati europei che vorranno dare disponibilità. Dopo un periodo di sosta nelle strutture adibite, i migranti saranno poi distribuiti tra i vari stati membri. Irini, ancora in fase di definizione per quanto riguarda la fornitura dei mezzi da parte degli stati, ha già sollevato perplessità sia da Tripoli che da Bengasi. Tripoli teme infatti che l'attività di controllo dell'Unione Europea possa colpire soprattutto le navi turche cariche di rifornimenti essenziali. Bengasi teme che i controlli si concentrino nella parte orientale del paese e che possano ostacolare i normali traffici commerciali. E naturalmente soltanto il tempo ci darà conto di quanta sarà l'efficacia. Mi permetto timidamente di sottolineare ancora una volta che il problema vero e serio per ciò che riguarda l'approvvigionamento di militari, munizioni, armamenti e droni sul generale Haftar, visto che arrivano dagli Emirati Arabi Uniti, nonché linee di finanziamento, soldi con linee informali dell'Arabia Saudita, non è pattugliando il Mediterraneo che noi escluderemo a priori un rinnovato impulso bellico da parte di Haftar. Però ripeto, soltanto i prossimi giorni ci daranno ragione su questa tesi, se sia vera o meno. Mentre in questo momento c'è una sola parola che Andrea Roccabella è pronto a suggerirmi. Che è l'usuale preludio ai titoli di coda e ai ringraziamenti per essere stati con noi e aver contribuito con i vostri messaggi alla riuscita di questa puntata. A tutta la squadra di Nessun Luogo, e l'appuntamento è naturalmente domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.